impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Donne manager e sostenibilità. Alcuni casi aziendali di Daniela Abruzzo. Oggi parliamo di aziende con una leadership femminile che hanno a cuore la sostenibilità ambientale. Manager di imprese di famiglia che hanno deciso di impegnarsi per limitare al massimo l'impatto dell'impresa sull'ambiente. Silvia Ferrari dirige la Ferrari Formaggi insieme alle sue due sorelle. L'azienda è nata nel 1823 e oggi in Italia è leader nella produzione di formaggi, come il Gran Mix. La loro, spiega, è un'impresa in rosa, un po' per scelta, un po' per caso. Per scelta, perché comunque sia io che le mie sorelle siamo arrivate a coprire dei ruoli importanti nel consiglio di amministrazione e proprio nella gestione operativa quotidiana dell'azienda, per scelta e tramite gli studi, e quindi abbiamo studiato per lavorare in azienda per caso, perché noi fratelli non ne abbiamo. Noi tre abbiamo preso in mano le redini dell'azienda. Mio padre rimane oggi ancora il presidente con grande attività, perché è sempre presente, però diciamo la gestione operativa è nelle nostre mani. Diventare imprenditrice per una donna non vuol dire semplicemente ereditare l'azienda di famiglia. Solo chi lavora duramente riesce a portare avanti il suo obiettivo. E spesso, nel caso delle donne, l'impegno richiesto è il doppio rispetto a quello dei colleghi maschi. Prima di fare, bisogna dimostrare di esserne all'altezza, come spiega Valentina Scotti, amministratore delegato di Riso Scotti Danubio, controllata al 100% da Riso Scotti Italia, che è specializzata nella coltivazione, lavorazione, confezione e vendita del riso nei mercati dell'Est Europa. Vorrei vedere più dirigenti donne, perché le donne se lo meritano, perché per arrivare dove sono arrivate hanno dovuto impegnarsi molto di più, hanno dovuto fare tanti sacrifici di tipo diverso rispetto a un uomo, e quindi io spero che ci siano più donne dirigenti. Allo stesso tempo dico, noi donne cerchiamo di abbassare a volte un po' l'energia, di cercare di essere un po' più emotive, di passare sopra magari ad alcune cose che non ci piacciono tanto, quindi ridurre quel senso di perfezione che a volte facilita tanto nel lavoro. Spero che le donne imparino nel tempo a essere un po' più abituate a fare sistema. Il problema, secondo me, oggi che noi abbiamo è quella di volerci sentire sempre brave con noi stesse, il marito che ci dice che è bravo, il fidanzato, anche i colleghi, però non è che per forza se tu sei più bravo degli altri tu non puoi fare, cioè nel senso, oggi secondo me bisogna cercare di lavorare di più insieme e fare team, e invece noi donne a volte facciamo un po' fatica. Ma Silvia Ferrari, della Ferrari Formaggi, è più ottimista. Per lei le donne sono capacissime di fare squadra. Secondo me è il modo di approcciare la vita delle donne, il modo di approcciare il business, cioè le donne sono migliori e più brave a fare squadra, a fare team, a condividere, sono meno dirigiste, sono più capaci, una volta che viene individuato l'obiettivo comune, a fare squadra. Un'azienda gestita dalle donne è più facile andare d'accordo, è più difficile trovare lo scontro, si cerca di più la mediazione, che non vuol dire non prendere delle decisioni, ma vuol dire condividerle. Per Silvia Sarzi, direttrice marketing di Sterilgard, azienda del settore lattiero caseario che produce metà del fatturato con succhi di frutta e derivati, oggi parlare di genere, per evidenziare le differenze tra un imprenditore e un'imprenditrice, è alquanto obsoleto. Con l'avanzare del tempo il ruolo tra uomo e donna è sicuramente migliorato rispetto che al passato. Sicuramente mi capita di fare delle riunioni, delle fiere, delle convention dove la percentuale delle donne è ancora molto molto bassa. Però se io penso che l'intelligenza di una donna e l'intelligenza di un uomo che si trovano di fronte a discutere di lavoro e anche di qualsiasi altro, le caratteristiche mentali e imprenditoriali sono equivalenti, e quindi l'uomo in un certo senso si trova a rispettare una donna se ha le qualità parietarie alle sue. Per Silvia Ferrari, invece, essere imprenditrice in Scandinavia o in Italia non è la stessa cosa. Per questo, spiega, abbiamo ancora così bisogno delle quote rosa. Nel nord Europa questo problema del genere non esiste. cioè proprio non esiste. Tu puoi incontrare al vertice di un'azienda qualsiasi persona non c'è stupore né da parte nostra né da parte loro se ci sono delle donne o non ci sono delle donne. Forse nella parte invece in Italia e in altri paesi ancora c'è meno presenza femminile. Io credo che insomma, questo fatto delle quote rosa dia una dimostrazione pratica di quanto sia necessario forzare questo cambiamento, perché è un cambiamento, no? È un cambiamento culturale. Le donne manager descritte da queste imprenditrici sono attente, precise e lo sono anche dal punto di vista della sostenibilità. In che modo? La signora Ferrari e le sue sorelle hanno un'idea precisa. Secondo noi, e questa è una cosa che abbiamo proprio fatto io e le mie sorelle, sostenibile si intende anche aiutare e coltivare tutte quelle economie che sono economie, chiamiamole così, rurali o piccole economie. Noi 5 anni fa abbiamo comprato uno stabilimento in Alta Valtaro per la produzione del parmigiano reggiano prodotto di montagna, e qua veramente si tratta di sostenere un'economia del territorio, perché bisogna raccogliere il latte in montagna e le stalle montane sono stalle piccole, abbiamo addirittura alcuni conferenti nei quali raccogliamo ancora in bidoni, e mantenere attivo, mantenere vivo, cercare di incrementare la produzione di questo prodotto vuol dire mantenere attiva, mantenere viva l'agricoltura del territorio. Per Valentina Scotti, sostenibilità vuol dire consapevolezza. La sostenibilità oggi, secondo me, è quasi una parola che si sente e si risente. Più che altro oggi io parlerei di consapevolezza, consapevolezza delle proprie azioni, che vuol dire che quello che noi oggi facciamo ha degli effetti. E questo, secondo me, nell'azienda, l'azienda parla a diversi portatori di interessi. E quindi per me oggi fare sostenibilità vuol dire essere consapevoli che le proprie azioni hanno un effetto su tutti i portatori di interesse che lavorano con l'azienda, tra cui l'ambiente. Ma il concetto di green si presta alle più sfaccettate interpretazioni e spesso può riguardare anche i dipendenti che lavorano in un'impresa, ad esempio indicando la qualità della vita che trascorrono nel luogo di lavoro, come racconta Valentina Scotti. Le aziende che funzionano perché hanno persone che sono felici di svegliarsi al mattino e venire a lavorare, questo è l'ambito su cui ci stiamo muovendo. Sono piccolezze, però da corsi di yoga che abbiamo iniziato a fare in azienda, pure corsi anche di formazione di alimentare. Oggi crediamo che aziende come la nostra, cioè la cultura sul cibo deve essere intrinseca all'azienda, perché così tutti dall'amministrazione possano prendere delle decisioni che guardino al cibo e alla nutrizione con l'attenzione con cui oggi Riso Scotta sta cercando appunto di contribuire e sta cercando di ottenere. Per Silvia Sarzi la sostenibilità è qualcosa di concreto. Un imballaggio, per esempio, può esserlo. Noi nel 1969 abbiamo fatto una policy che probabilmente è stata lungimirante rispetto al futuro, perché abbiamo scelto di impacchettare, se così si può dire, il nostro prodotto nel miglior packaging sostenibile che in questo momento si ha, che è il Tetra Pak. E tutti i nostri prodotti hanno questa metodologia, dove sicuramente hanno un aspetto di sostenibilità maggiore rispetto ad altre confezioni. Quindi Sterilgarda sulla sostenibilità ha sempre cercato di avere un occhio di riguardo, ma anche sia all'interno che all'esterno. Sostenibile vuol dire tante cose, ma tutte queste hanno un costo, talvolta elevato. Per Sarzi di Sterilgarda, solo le imprese che credono davvero nei valori ambientali decidono di investire in questo senso. Una parte degli investimenti tutti gli anni vanno canalizzati in questo senso. Le faccio un esempio: la sostituzione di tutte le luci a basso consumo a LED o a basso impatto ambientale, o il fatto di poter investire in energie rinnovabili, pannelli solari. In questo momento per l'azienda sono tutti un costo che in un futuro potranno mai essere ammortizzati, però in questo momento sono un costo che tu devi canalizzare, ci devi credere. Non tutto può essere quantificato, secondo Silvia Ferrari. Sostenibilità vuol dire soprattutto solidarietà verso l'ambiente e verso le persone. Per questo rappresenta un obbligo morale. Ci sono delle cose che non sono misurabili, nel senso che se io permetto a una piccola fattoria dell'Alta Valtaro di mantenere le sue poche mucche, di mandare avanti la sua attività, va bene, io posso mettere vicino un numero a questo, ma ha senso? No, perché secondo me bisogna pesare quanto vale l'aiuto che io ho dato a queste persone a non chiudere, perché per alcune persone è un sostentamento, non avrebbero altro modo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.